Per fare un parangone bisogna dire che Carrara in Italia è il district del marmo, anche se non ci sono più tante marmi in Carrara, sì. Tutto il marmo del mondo va in Carrara. E Marsiglia era lo stesso sulle macchine d'occasione. Tutte le macchine d'occasione che andavano in Africa passavano per Marsiglia. Sì, magari quelle vecchie Peugeot, mezze scassate, che poi trovavi a Nouadhibou in Mauritania. Oggi il district, si dice così, il distretto della macchina d'occasione è Anvers, Bruxelles e in Belgio, in Germania, non è più in Marsiglia. Sì, sì. Nessun luogo è lontano. La vie est courte, les délices du bonheur substantiel, la mort frappe l'oiseau assassiné en plein ciel. Ancora ben ritrovati, questo è Nessun luogo è lontano. Oggi riflettori accesi su Marsiglia, dopo che per alcuni giorni di seguito la grande stampa francese ha messo la città in prima pagina dicendo: città fuori controllo, troppi omicidi, troppi assassini, il racket della droga, il potere pubblico è impotente. Insomma, in questa puntata di Nessun luogo lontano abbiamo cercato di capire meglio se è vero, se in parte è una bolla mediatica, e quanto invece le dinamiche anche sociali incidono su questa economia parallela, un'economia illegale. Ed è interessante quello che diceva il professor Peraldi, e diceva: attenzione, perché si è lasciato un vuoto una volta in passato, quella Marsiglia che garantiva la piccola economia, quella diciamo alla valigia, magari la macchina usata, magari un paio di valigie piene di piccole mercanzie, quella dava sostentamento a larghe fasce della popolazione marsigliese. Venendo a cadere quella, con la grande industrializzazione, le vieux port, il vecchio porto non è più, è giusto, insomma ci approdano gli yacht, ma non è più il porto commerciale di Marsiglia, c'è quello grande, quello delle multinazionali, quello delle grandi aziende, ebbene c'è tutta una parte di Marsiglia che è rimasta forse orfana di quella piccola economia che le dava sostentamento e che è stata riempita da un'altra economia totalmente illegale, quella del traffico di droga, soprattutto hashish, cannabis, eccetera, eccetera. Un'altra idea interessante che mi intrigava il professor Peraldi, io quando ci siamo sentiti prima della trasmissione dicevo, insomma, poi però c'è la componente corsa, c'è questo impiantarsi delle reti criminali corse in passato, che hanno dato un po', no, un'impronta anche a questa, al racket e all'economia criminale di Marsiglia. Non so se è d'accordo. D'accordo, sì, sulla storia, d'accordo sul il presente di questa storia. Bisogna sapere delle cose che non sappiamo adesso, penso. Quindi è vero che Marsiglia negli anni 60, più o meno 60-70, era il, voglio ancora fare la parola distretto, era il distretto dell'eroina che andava in America. Quindi questo ha costituito una, come dire, una tradizione, no, di lavoro, una tradizione economica che adesso magari si mantiene e si trasmette da generazione a generazione, e penso da rete a rete. Ieri le reti erano corso, penso Italo Corso, perché penso che anche la mafia siciliana non era tanto lontano di questa storia. Oggi sembra che i reti sono magrebini, quindi se c'è una relazione tra i reti corsi e i reti magrebini, questo non l'ho mai visto, ma magari è possibile. Quello che è sicuro è che ci sono le reti, c'è il traffico, ci sono le tradizioni di finanziamento del traffico, eccetera, e questo è una realtà. Ecco, fra l'altro Laurent Mucchelli, che abbiamo ospitato prima, abbiamo sentito registrato, diceva: sì, le vecchie reti cosa fanno? Fanno fare il lavoro sporco ai giovani magrebini, loro lavorano sugli alti livelli, insomma. E quindi diciamo, se lui lo sa, va bene, io non lo so questo, sì, non sì, l'ho sì. mai sentito, non l'ho mai sentito, diciamo, nel terreno antropologico, sì, dove ho lavorato, questo non l'ho mai visto. Ma è vero che, come dire, dire l'economia criminale non è, come dire, senza fare delle cose difficili, l'economia criminale non è tutta criminale, l'economia criminale ha bisogno di tutta una delle bar, delle ristoranti, delle luoghi dove la gente si incontrano, eccetera, e questo è vero che in Marsiglia c'è un milieu, come si dice, sì, corso, che è questa infrastruttura, no? Questa parte infrastrutturale dell'economia criminale, ma non vuol dire che c'è un'organizzazione piramidale dove ci sono le corse i corsi in alto e sotto i magrebini. Questo penso che abbiamo bisogno ancora di fare delle indagini, delle ricerche su questo. Sì, e poi per chiarezza va puntualizzato che se, come dire, il tratteggio magari di Marsiglia che stiamo facendo può apparire un po' troppo fosco, rassicuro gli ascoltatori e le ascoltatrici, Marsiglia è una città meravigliosa, molto attraente, dalla vitalità, dalla vita anche notturna, estremamente divertente e quindi ecco, giusto per, come dire, dare anche, no, un giusto tributo a quella che è la realtà di una città. Esistono questi fatti di sangue su cui Le Monde, insomma, ha pestato duro, però è anche vero, come diceva anche Luc Leroux, insomma, c'è anche un po' di innamoramento mediatico su certe cose, questo fatto che i ministri, l'ultimo Valls è andato anche lui dopo i morti, sembra che i ministri dell'interno francesi siano un po' innamorati della situazione di Marsiglia, sì, chissà perché. Penso anche che c'è una, come dire, Marsiglia è diventata negli ultimi 10 anni è diventato un laboratorio dove la stampa, ma anche certi ricercatori, esperti trovano come una concretizzazione delle cose che si materializzano di qua e non in altra parte. E questo penso che Marsiglia fa un po' funzione del laboratorio della modernità in crisi, diciamo. Sì, anche questo, insomma, un altro tratteggio interessante, che peraltro il fatto che sia capitale della cultura non è un caso, ribadisce quella che è la sua vitalità. Professore, un piccolo passo indietro, perché quando lei diceva una volta era la capitale di questa piccola economia alla valise, questa piccola economia informale, e molti magrebini da Tangeri, da Rabat, da Algeri arrivavano a Marsiglia per fare i piccoli scambi, adesso invece siamo spostati da tutt'altra parte, no? Ci siamo spostati da tutt'altra parte, dico, la maggior parte dei magrebini va invece dove? Oggi questo commercio funziona ancora, è molto, molto attivo, ma funziona a Istanbul. Istanbul è diventata la capitale mondiale del commercio alla valigia, sulla Russia, Algeria, eccetera. Poi Napoli è una città molto, molto viva di questo punto di vista. Penso che le due città che hanno perso molto sono Genova e Marsiglia. Sì, sì. Anche perché Genova era anche un luogo di commercio alla valigia, eccetera, e adesso oggi penso ha perso. Sì. Marsiglia e Genova hanno perso questo. Professore, ma in chiusura, le manca Marsiglia? No. No? no, perché ho vissuto 10 anni in Marocco. E quindi no, va bene, la vita è bella senza Marsiglia, anche se vado spesso a Marsiglia, ma non mi mancano. Grazie allora, professor Michel Peraldi, per essere mi stato con noi. In Italia che Marsiglia. Allora l'aspettiamo. Buona giornata e buon lavoro, professore. Ciao, grazie. La chose est dédicacée à tous ceux qui se bougent contre le Front National et surtout à Vitrolles, à Marignane, à Orange et à Toulon. Boule Gauthier Cousin reprend la parole. Allez. La grande ville où je suis né, appelée Marseille par les Français, porte de l'Afrique dès l'Antiquité, elle fut construite par des immigrés depuis bien longtemps. Allora, un po' di precisazioni, devo chiedere venia, perché in una qualche citazione jazzistica, qua mi bacchetta un ascoltatore, c'era un Bill Evans, io chissà cosa ho detto, quindi di questo chiedo venia. Poi un'altra ascoltatrice, che peraltro è anche una collega, diceva, sono appena stato, ho fatto un reportage, ribadiva Marsiglia divisa in due, quartiere del nord, fuori dallo Stato. lì ci sono i capi zona che gestiscono tutti i traffici. E poi invece molto più polemico un altro ascoltatore che dice che regalo perle di saggezza, perché dico, tutti i marsigliesi sentono marsigliesi ricchi e poveri. Intanto non lo dicevo io, lo diceva un cronista di Marsiglia, ma era per sintetizzare che cosa? Il fatto che Marsiglia, a differenza di altre città francesi dove ci sono delle banlieue, e se l'ascoltatore polemico si ricorda un po' di fatti di cronaca nera francese, si ricorda che cosa è successo nelle banlieue di Francia, si ricorderà i titoli sui giornali e anche i TG italiani. Allora, tutto questo per dire che a Marsiglia, mancando quelle banlieue, c'è forse più osmosi, forse c'è più, non dico integrazione, però insomma più circolazione. Il fatto di essere marsigliesi è un motivo fondante, edificante, e quello che diceva il cronista, diceva, beh, questo forse può essere un motivo di slancio e di rilancio per la città, e da lì invocava i politici, chiamava i politici a compiere il loro lavoro e a dotare di adeguate infrastrutture anche il nord del paese. Altre interazioni, vediamo. Eh sì, c'è l'ascoltatrice di prima che dice non emerge la segregazione fortissima dei quartieri nord a quasi totalità magrebina, fallimento dell'assimilazione culturale. Beh, la Francia che stia facendo i conti con alcuni fallimenti della sua politica, su questo non c'è dubbio, questo da qualche anno, al di là delle rivolte a cui facevo riferimento, quelle appunto delle banlieue, tristemente note. Allora, ho un po' di tempo per darvi qualche aggiornamento. Partiamo dall'Egitto. Allora, Al Jazeera ci fa sapere: lacrimogeni sui manifestanti promorsi ad Assiut. Siamo a 350 km al sud del Cairo. Intanto, stato di massima allerta secondo l'agenzia MENA negli ospedali del Suez. Perché? Perché oggi, un altro venerdì che rischia di essere caldo, caldissimo, perché i manifestanti promorsi hanno chiamato ad altre manifestazioni. Vedremo quale sarà la risposta delle forze di sicurezza. Altre manifestazioni sono state chiamate anche a Alessandria, lo dicevo, non solo al Cairo ma in tante altre città dell'Egitto. E intanto una dichiarazione del nostro ministro degli esteri Bonino, che dice: in Egitto dobbiamo trovare altre leve, perché evidentemente la sola leva economica si rivela particolarmente fragile. Questa è sostanzialmente la risposta a fronte di quei 12 miliardi di dollari, pensate, messi sul tavolo da Arabia Saudita, Kuwait ed Emirati, di fronte alla stringere il cordone da parte dell'Europa e degli Stati Uniti. Il rischio dal punto di vista, come dire, politico generale è che USA e UE, Stati Uniti ed Europa, vengano estromessi dal gioco dei finanziamenti e quindi anche della possibilità di incidere politicamente nel paese nordafricano. Staremo a vedere nei prossimi giorni. Ho il tempo però di salutarvi e ringraziarvi. E quindi ringrazio voi per essere stati all'ascolto, Mire Lucchetti, Isotta Scenna per aver curato con me questa puntata, Gianmarco Ferronato per averci messo la musica giusta. Gli appuntamenti sono per le repliche sabato e domenica in versione extra large, cioè il meglio della settimana di Nessun Luogo Lontano, e poi ci risentiamo la settimana prossima, lunedì, ore 13:15. Intanto un saluto da Giampaolo Musumeci.